4 mattino. Se l'Europa ci tratta in questa maniera ogni volta che c'è un minimo problema, ma perché, anche se fossero senza condizioni, noi dobbiamo farci dare dei soldi da loro, ok, in questa maniera, per un domani poi sentirci dire: ah, ma noi abbiamo dato, ah, ma noi, ah, ma voi. Buongiorno Simone, ma abbiamo già trovato il posto per tutti questi ventilatori che non servono più e che ce n'è tutti i giorni, 40-50 in più? E l'ospedale su Milano appena costruito, che è costato più di 20 milioni, quanta gente c'è? Credo che abbia un senso il discorso delle librerie, perché è un settore che è in grandissima crisi anche per via delle disponibilità telematiche, diciamo così, ed è un settore nevralgico per questo paese, che ha bisogno di recuperare tantissimo in termini culturali. Troppa gente legge troppo poco. Le 7:19 minuti, inizia la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 16 aprile, al microfono sempre Simone Spezia. Sul MES, io devo dire la verità, non mi pare in tutta sincerità che l'Europa ci abbia, aperte virgolette, trattati male, chiuse virgolette, Al di là di un po' di qualche caduta di stile, per così dire, è aperta una discussione all'interno dei membri dell'Eurozona su come reagire a questa crisi. Noi portiamo una nostra tesi, che è quella degli Eurobond, che è una tesi respinta dai paesi del nord, i quali ne portano un'altra: bisogna utilizzare il MES, che è respinta da noi o da un pezzo della nostra maggioranza. Punto. Si discute e se ne parla. Nel frattempo vengono varati altri strumenti, quello per questa sorta di cassa integrazione europea, la banca centrale che europea, che lo ricordiamo è un'istituzione europea, cioè non è che è un'istituzione a caso, e quindi quando parliamo di Europa ricordiamoci che c'è anche la BCE che vara acquisti illimitati di titoli. Insomma, non è una difesa dell'Europa che i suoi problemi, le sue colpe politiche ce le ha, per carità. Non è una difesa a tutti i costi, però occhio a metterla così brutale. Sul MES vedremo. Chiaro che per il momento è un accordo solo all'interno dell'Eurogruppo, i capi di Stato e di Governo dovranno stabilire esattamente quale sarà l'eventuale utilizzo e se ci saranno effettivamente delle condizioni. Se veramente la condizione fosse solo l'utilizzo per le spese sanitarie, beh, ragazzi, non vedo perché non prendersi quei soldi, lo ribadisco. Poi magari un'opinione sbagliata, però se la condizione è quella, non vedo che problema ci sia. Visto che comunque dovremmo fare altro debito, oggi il Fondo Monetario fa qualche calcolo sul debito italiano e su quanto potrebbe salire, e quindi meglio farlo a tassi più bassi e più a lungo termine, piuttosto che farlo sul mercato, in questo caso, insomma. È un po' come prendere un prestito da una banca, insomma, ecco, per intenderci. Se uno ti dà un tasso fisso allo 0,7%, tutto sommato te lo prendi, invece che un variabile all'1,5, a partire dall'1,5, no? La questione delle forniture, beh, insomma, guardate, non entro sul tema dell'ospedale in fiera, perché qua la discussione è aperta e si colora ancora una volta di questioni politiche. Dico solamente che i ventilatori, le strutture che abbiamo, sono cose che sperabilmente, se non funzionano come funziona di solito in Italia, rimarranno anche dopo, e quindi son là. E magari risultano utili, ci fosse per esempio una recrudescenza dell'epidemia. La questione delle librerie, sì, insomma, io l'unico dubbio che ho è questo, che la gente, appunto, ormai lo usi come autocertificazione. Uno lo prende e dice vado in libreria, autocertifico, e questo mi consente di farmi la passeggiatina senza incorrere nell'occhiuto controllore che con l'elicottero dal cielo mi dice: lei sta andando in libreria o sta andando a fare una passeggiata. Però insomma, bene, c'è, cioè, un pezzo d'Italia che riparte, e va bene anche questo, pur con tutte le precauzioni, naturalmente. I giornali, le aperture, molte aperture sono dedicate alla Lombardia, Fontana che sfida Conte, apriamo il 4 maggio, scrive La Stampa, il Messaggero che dice riaperture, strappo Lombardia, così lo definisce, il Corriere della Sera più neutro, la Lombardia vuole ripartire, la Repubblica invece più dura, la sbandata lombarda, su questa richiesta di riapertura, di ripartire il 4 maggio con alcune condizioni. Il Quotidiano Nazionale si sofferma invece su quello che è forse il problema, no? Il caos delle regole, ripartenza all'italiana, si parla di riaprire fabbrica e uffici entro aprile, la Lombardia lo farà forse il 4 maggio, ma nessuno dice come. Quotidiano Nazionale, scusate, che apre anche una questione che, della quale vi ricordo che parleremo a partire dalle 8:30 con Maria Latella e con i nostri ospiti, che è quella delle scuole. Germania, Francia e Danimarca tornano a scuola, l'Italia pensa a settembre, ma non sa ancora come fare. Il titolo è Gli ultimi della classe. Se volete intervenire anche su questo, il 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp, anche audio, e poi più avanti alle 8:20 l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Siamo anche in diretta su Facebook, ve lo ricordo sempre, ve lo ricordo ancora, sulla pagina di 24 Mattino. Il Fatto Quotidiano, la fase 2 in Lombardia, 235 morti, PM tamponi, stop e aziende aperte. Il Manifesto sceglie di aprire su Donald Trump, shockdown su Trump che indica l'OMS come, secondo il Manifesto, capro espiatorio di questa vicenda. Abbiamo anche il Giornale che titola sul piano per riaprire e quello per chiudere il governo, la Lombardia che tornerà alla normalità dal 4 maggio, e poi arriveremo alla parte politica. Secondo il Giornale, Conte traballa e già si fa un nome, quello di Vittorio Colao. Spunta questa ipotesi, chissà se per bruciare il nome. Colao che ritroviamo anche sulla prima pagina della Verità, che titola I 200 miliardi di Conte sono 5. Il tema è un po' quello che era stato sollevato anche ieri dal Sole 24 Ore su questo effetto leva che, insomma, potrebbe non funzionare come ci si aspetta. E a centropagina c'è questa foto di Colao, le prime mosse di Colao, che è stato messo a capo della task force, appunto, della task force per la ripartenza, esautora un ministro e chiede lo scudo penale, così scrive la Verità. Andiamo anche, direi, alla Gazzetta dello Sport, perché poi magari se abbiamo tempo ci torniamo, perché qua il calcio sta pensando di ripartire, sta pensando un po' seriamente di ripartire. Dunque, prime prove di ripartenza, un'ipotesi, via il 27 e 28 maggio con le semifinali di Coppa Italia. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, l'apertura, e poi arriveremo a parlarne col nostro direttore Fabio Tamburini, sulla liquidità, l'assalto con l'incognita dei tempi. A centropagina il Fondo Monetario Internazionale che vede un debito italiano al 155,5% e chiede solidarietà all'Europa, e un bel pezzo di Luca Orlando a pagina 5 ci racconta come Brescia prova a riaprire i cancelli, un accordo tra imprese e sindacati che forse potrebbe anche far da pilota. Iniziamo come sempre però da qualcosa di laterale, di laterale. Massimo rispetto per tutto il personale medico e per gli infermieri che stanno facendo il loro lavoro straordinariamente, in maniera egregia, in gran parte, e però c'è anche chi tenta di schivare tutto questo, a quanto pare. Lo racconta il Messaggero, siamo in cronaca di Roma, a pagina 32, il pezzo lo firma Massimo Sbardella e ci racconta di una fuga dall'ospedale di Palestrina. La conversione in Covid Hospital dell'ospedale di Palestrina potrebbe essere all'origine dell'improvviso ammutinamento di medici e operatori che, colpiti in massa da malattia, non si sono presentati al lavoro, costringendo la direzione aziendale a prendere provvedimenti. È con grande rammarico, lo dice il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Santonocito, che oggi mi sono trovato nella necessità di segnalare alle autorità competenti l'anomala massiccia assenza per malattia di oltre 30 operatori sanitari in forza all'ospedale di Palestrina, appunto in coincidenza. Cioè nel momento nel quale diventa Covid Hospital, improvvisamente si ammalano 30 persone. Se da un lato è vero che il personale in servizio al coniugi Bernardini, così si chiama l'ospedale, ha un'età media piuttosto elevata e non mancano patologie croniche tra chi lavora, non è escluso che alcune delle ben 36 assenze possano essere ricondotte alla recente trasformazione in ospedale spo-Covid per la ASL Roma 5 e ai recenti eventi. In questi giorni, infatti, tra il personale dell'ospedale è emersa la positività al coronavirus di una dottoressa in servizio al pronto soccorso, alla quale si aggiunge una collega infermiera già da giorni a casa per sintomi riconducibili al virus, ed un ulteriore medico che, pur negativo al primo tampone, ha evidenziato all'attacco una polmonite bilaterale molto simile a quelle Covid. E dunque ci sono i due aspetti in questa storia, se volete. Da una parte, insomma, questa sorta di fuga di massa dall'ospedale di Palestrina, e dall'altra parte la tutela del personale ospedaliero e come è stata gestita la questione Covid, con molta ospedalizzazione e poca attenzione al territorio. Torneremo a parlare anche di questo, lo faremo col vice ministro alla salute Sileri alle 8:20 e poi appunto alle 8:30 parleremo di scuola. Due cose un po' più leggere dai giornali, poi ci prendiamo una pausa e andiamo invece a tutto il resto, a partire dalla questione delle RSA e passando per le vicende politiche. Allora, due storie, anzi una storia e più storie che si mescolano. La storia singola arriva dalla Repubblica, pagina 23, con Romina Marceca che ci racconta la storia di Domenico Finazzo, 62 anni. Un uomo che ha deciso di prendersi, dato che vive di rendita, tutte le multe che si deve prendere. Perché? Perché ogni giorno, o quantomeno ogni giorno che gli gira, prende la macchina, va sulla spiaggia di Mondello a Palermo e si mette a prendere il sole. L'altro giorno addirittura sorvolato da un elicottero dei carabinieri che racconta: ero disteso al sole, a un certo punto poco sopra la mia testa ho visto un elicottero dei carabinieri, sono stato costretto ad andare via avvolto nel mio telo dal mare per difendermi dal vortice di sabbia provocato dall'eliche dell'elicottero. In strada poi ha trovato la polizia, sì, mi hanno consegnato la terza sanzione, già mi avevano trovato sulla stessa spiaggia nei due giorni precedenti, quello è il mio punto preferito da 20 anni, la quarta l'ho presa il giorno successivo e la quinta mentre ero in auto sempre per andare al mare. Insomma, ha deciso di prendersi tutte le multe che si deve prendere, dice basta che mi prendo il sole. Dovrà pagare oltre 1500 euro per una tintarella che poteva prendere ai bordi della piscina della sua villa? Vivo di rendita, posso permettermelo, ero titolare di un supermercato che poi ho chiuso, la piscina e il cemento sono un'altra cosa, a me piace la sabbia e il mare, il bagnante di Mondello, recordman di multe, vado in spiaggia e pago, sono un uomo libero, racconta. E poi il cappuccino, le unghie e i capelli clandestini. Il Fatto Quotidiano con Lorenzo Giarelli a pagina 16 ci porta in questo mondo segreto, oscuro, dei bar tabacchi che, pur dovendo lasciare aperta solo la parte tabacchi, lasciano un po' aperta per i clienti più affezionati anche la parte caffè e cappuccino. La setta dei cappuccini proibiti, la definisce così Lorenzo Giarelli, placa una delle astinenze più feroci del paese. Dove? Quando? In genere bisogna affidarsi appunto ai bar tabacchi. A Roma ci casca il bar di una piazza a pochi metri da una delle più note attrazioni turistiche, che però in questi giorni non attrae né visitatori né clienti. Nel deserto silenzioso della capitale, se non ci sono pattuglie all'orizzonte, il vecchio rituale dell'espresso si perpetua. Succede anche a Villa Convento, in provincia di Lecce, dove un bar tabacchi è stato chiuso per 5 giorni dopo che gli agenti avevano scoperto lo spaccio sottobanco di caffè. A Pescara il fattaccio avveniva di notte. A inizio aprile la Guardia di Finanza ha scovato un bar che alle 3:30 antemeridiane offriva da bere e da mangiare ai nottambuli, forse colpiti da insonnia o stufi della compagnia domestica. E poi i parrucchieri, i barbieri, le manicure e pedicure che, nonostante tutte le previsioni, le prescrizioni, vanno a casa delle persone e che e, insomma, si offrono per portare il servizio a domicilio. Proibitissimo, ma lo fanno. Una pausa. Mattino. Mia moglie ha una libreria fumetteria a Modena. Ieri mattina tante telefonate per sapere se era aperta, ma incasso 20 euro. Ma quali 4D? In Cina hanno riaperto quando avevano morti zero. Pensare di riaprire il 4 maggio è alquanto assurdo, tanto più che già adesso, con la riapertura di diverse attività, il traffico è notevolmente aumentato e anche le persone in giro. Direttore del personale di una grande azienda agroalimentare del Veneto. Non abbiamo mai smesso di lavorare, abbiamo sempre lavorato in sicurezza e oggi, dopo 3 settimane di ricerca, sono riuscito a reperire i test sierologici, li facciamo tutta la popolazione aziendale. Oh, bravissimo, bravissimo. Ci sono molte aziende che si stanno organizzando esattamente in questo modo, si stanno auto-organizzando, visto che le autorità su questo fronte faticano ad intervenire, per quanto le autorità siano state piuttosto rapide, come per esempio in Veneto. Sulla questione della riapertura, io non penso che si ragioni su una riapertura insomma, rapida, completa e di tutto quanto. Si parla di una riapertura a scaglioni. Io l'unica cosa che raccomando sempre è di evitare un paragone stretto con la vicenda di Wuhan, perché ci serve dal punto di vista sanitario, ma ricordiamoci che Wuhan è il 3% del territorio cinese, è il 3% della popolazione cinese. Cioè, qua non stiamo parlando di un intero paese, stiamo parlando dell'intera Italia. Qua è come se in Italia fosse rimasta in lockdown fino a zero morti l'area di Codogno, cosa che effettivamente appunto è avvenuto, l'area di una piccola città. E quindi il paragone, per così dire, regge e non regge. Dal punto di vista sanitario certamente, dal punto di vista della vita di tutti quanti è un po' più complesso, oggettivamente. A proposito di questo, adesso ci arriviamo anche alla questione delle riaperture, delle quali si sta discutendo moltissimo. Tra un attimo poi con il nostro direttore Fabio Tamburini vi andremo anche a raccontare un po' come si sta organizzando l'Associazione Industriale di Brescia, che insieme ai sindacati ha raggiunto un accordo per poter ripartire in sicurezza, un po' come ci diceva l'ascoltatore che fa l'imprenditore. A proposito di riapertura, aprirà il dibattito, mi par di immaginare, apriranno un dibattito le parole del ministro per le pari opportunità Elena Bonetti, intervistata dal quotidiano La Repubblica, a pagina 15. Il titolo è questo: i nostri figli hanno diritto a giocare, apriamo i parchi a turno. Bisogna fare in fretta, dice intervistata Maria Novella De Luca. I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco, di movimento e di aria. Dobbiamo predisporre, quando sarà possibile riaprire, spazi all'aperto con un controllo dei flussi. Penso a giardini con volontari che regolino gli ingressi, per nuclei familiari ad esempio. Penso ad aree sportive dove due fratelli possano giocare a pallone o piccoli gruppi di bambini ben distanziati possano fare delle attività motorie e ludiche. Così Elena Bonetti, ministra per la famiglia e le pari opportunità di Italia Viva, dice: nel massimo rispetto delle regole sanitarie e delle indicazioni del comitato scientifico, oltre alle fabbriche e ai negozi, dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c'è la loro salute fisica e psichica. Oh, qua molti si staranno chiedendo se questo ragionamento non andrà fatto anche per gli adulti, per l'attività fisica negata in questo momento agli adulti, o da fare ovviamente con molta difficoltà. La riapertura, beh sì, appunto, come vi dicevo, c'è molto sui giornali, il piano per riaprire è quello di cui parla il giornale, e quello per chiudere il governo, con la Lombardia che chiede di tornare alla normalità dal 4 maggio, alcuni giornali la mettono giù dura, come dicevo la Repubblica parla di una sbandata lombarda, il punto qual è? Lo racconta bene il Corriere della Sera, c'è questa richiesta della regione, riapriamo a maggio, il 4 maggio, sulla base, almeno in parte, sulla base di alcune regole, le 4D sono state chiamate, il test, si tratta della distanza, racconta Gian Piero Rossi a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Distanza, un metro di sicurezza tra le persone, dispositivi, obbligo di mascherina per tutti, digitalizzazione, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere, e diagnosi: dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia. Cosa succede all'ombra di tutto questo? Succede che il governo si innervosisce e dice, insomma, voi fino a ieri, trapela un po' da tutti retroscena, fino a ieri chiedevate il massimo rigore e adesso improvvisamente parlate di riapertura. E Giuseppe Conte, che sospetta che dietro la manovra ci sia Salvini, che vuole mettere in questo modo pressione al governo. Dall'altra parte, insomma, qualcuno lo vede come un ulteriore elemento di questa operazione che passa anche attraverso la questione del MES per sostanzialmente far fuori il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sostituirlo con chi? Secondo il giornale, con Vittorio Colao, appena messo a capo della task force che dovrebbe occuparsi della ripartenza. Ora, non sappiamo se sia un'operazione per bruciare il nome, quella che troviamo sul giornale, a volte succede esattamente questo, però l'ipotesi circola e Colao in queste ore molto presente sui giornali. La questione delle residenze per anziani, delle case di riposo, è una questione nella quale al centro della scena, come ben sapete, c'è la Lombardia e il Pio Albergo Trivulzio, perché questi morti sarebbero stati nascosti e perché il Pio Albergo Trivulzio, come spesso abbiamo detto, è un luogo anche simbolico, no? Importante dal punto di vista simbolico, è il luogo da cui partì l'inchiesta di Mani Pulite, e però ci sono anche tutti gli altri luoghi d'Italia nei quali, insomma, si sta cercando di capire qual è l'effettiva estensione del fenomeno, quante persone sono morte e si sono contagiate all'interno delle residenze per anziani, e sono tantissime. Ci sono una trentina di procure al lavoro, alcune hanno già aperto delle inchieste, e partiamo proprio da Milano, direi, con il pezzo ancora una volta di Claudia Guasco a pagina 8 del Messaggero, che ci racconta della delibera firmata in piena emergenza con la quale l'istituto ebbe carta bianca sui pazienti, ed è il motivo per il quale i magistrati stanno indagando anche sulla regione. C'è una delibera nella quale gli enti di riabilitazione e degenza per anziani sono invitati a bloccare il 50% dei propri posti per accogliere pazienti Covid-19 a bassa intensità, ossia quelli che non hanno bisogno di cure particolarmente intense, insomma non hanno bisogno della terapia intensiva, con l'individuazione da parte delle agenzie di tutela della salute, le ex ASL, di strutture autonome, padiglione separato o edificio fisicamente indipendente dal punto di vista organizzativo. Nel caso del Trivulzio, stando alle denunce dei familiari degli ospiti morti e di alcuni dipendenti, questo non è avvenuto e il virus ha cominciato a diffondersi, complice la mancanza di dispositivi di protezione individuali prima assenti e poi rudimentali. Si arriva al 30 marzo, il bollettino interno registra 70 morti in un mese e proprio quel giorno c'è una nuova delibera regionale. In considerazione dell'andamento epidemiologico, caratterizzato da un'estesa diffusione del nuovo coronavirus sul territorio che sta coinvolgendo diverse strutture sociosanitarie, e vista anche la particolare fragilità degli ospiti, riteniamo utile richiamare le misure generali di attenzione e precauzione. Quali sono queste misure generali di attenzione e precauzione? Evitare baci e abbracci, lavare bene le mani, tossire e starnutire nel fazzoletto, stare a un metro di distanza. Ma, si chiede un'infermiera, com'è possibile in una struttura nella quale gli anziani vengono imboccati, lavati e cambiati? È una buona domanda. Così come molte domande se le sta ponendo sicuramente Rosella Marasco, che racconta a Nicolò Zancan sulla Stampa, pagina 7, la sua storia, e qua siamo nel torinese. Mio padre è stato il primo a morire dentro la casa di riposo Trisoglio di Trofarello, il primo caso ufficiale di Covid in questa catastrofe, racconta. Si chiamava Cosimo Marasco, 87 anni, ex operaio alla Fiat. Possedeva il 75% di un piccolo appartamento nella provincia di Torino, ragion per cui era ritenuto benestante. Così il ricovero nella struttura pubblica convenzionata con il privato costava alla sua famiglia 2.700 euro al mese. La chiamano domenica 22 marzo, mi hanno detto a 38 di febbre, saturato da 95 a 86, lo portiamo all'ospedale di Moncalieri, ma in sostanza che cosa succede? Succede che a questo punto, insomma, i casi ci sono, si stanno estendendo, tanto che sono 450 le persone morte nelle residenze per anziani piemontesi al 13 aprile, secondo la CGIL ora sarebbero oltre 500. E ancora la Campania, qua ci porta la verità, a pagina 10, la strage silenziosa negli ospizi campani che secondo i dati ufficiali non è avvenuta. Per l'Istituto Superiore di Sanità i decessi nelle RSA sarebbero 14, ma i parenti delle vittime raccontano altre storie. Per esempio, a Fuorigrotta, il quartiere dello Stadio San Paolo di Napoli, una struttura a modello, quella casa di mela all'interno delle scuole pie. La signora Mirella, sorella di una donna risultata positiva al coronavirus, racconta che quell'area si è trasformata in un girone infernale, 7 morti per Covid, 39 contagiati su 42 ospiti, infettati anche 10 assistenti. E però i conti dell'Istituto Superiore di Sanità sulle RSA campane indicano 14 vittime, non solamente naturalmente nelle RSA campane. Adesso vi pesco anche una pagina dal Messaggero, se la riesco a ritrovare, è quella che ha a che fare con Rocca di Papa, eccolo qua, dovrei recuperarla, è un'altra residenza per anziani nella quale naturalmente ci sono state vittime, ci sono stati molti contagi ed è arrivato ieri l'esercito. L'allarme a pagina 32, sempre della cronaca di Roma, Rocca di Papa blindata da un cordone sanitario con i militari a presidiare le principali vie d'accesso della città. Dopo che i casi di coronavirus all'interno della clinica San Raffaele sono saliti a 138 tra pazienti e operatori sanitari, oltre a 5 decessi. E questo per quanto riguarda l'ospedale. Il tema è che è stata isolata la casa di riposo, ci sono tamponi agli operatori ed è scattato appunto anche qua un cordone sanitario. Come vedete, il fenomeno è esteso in tutta Italia. Traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Ed eccoci qua, caro Fabio Tamburini, nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, il tema con il quale si apre il Sole 24 Ore è quello dei tempi, la liquidità della quale hanno bisogno le aziende, liquidità che fatica ad arrivare, insomma si parla di 7-10 giorni almeno per tutta una serie di lentezze che sono normative, burocratiche, in sostanza varato il decreto l'abbiamo fatta un po' troppo facile, ecco. Se fossero 7-10 giorni ci sarebbe da stappare magari non champagne, perché di questi tempi è meglio vino italiano, però ci sarebbe davvero da brindare. Il sospetto è che 7-10 giorni per far arrivare i soldi nelle tasche delle imprese non basteranno mica, perché le procedure sono complesse, le banche, almeno per le aziende di una certa dimensione, devono valutare il merito di credito. Insomma, non è mica così semplice, ci sono delle responsabilità anche da parte delle banche stesse, se concedono prestiti a chi non dovrebbero concederli. Insomma, lo scenario è piuttosto complicato, qui non si parla di 7-10 giorni, si parla di 2-3 mesi e quindi c'è una certa inquietudine. Oggi diamo conto sul giornale della corsa da parte delle imprese a ottenere questi fondi, che sono fondi indispensabili, perché oggi c'è una parte dell'Italia che comincia a vedere l'acqua che si alza, l'acqua alla gola, è in difficoltà. Abbiamo lanciato come giornale una iniziativa SOS liquidità, ci arrivano lettere drammatiche di persone che sono davvero in difficoltà economica grave. E quindi riconoscendo anche quello che è stato fatto, per esempio da ieri le partite IVA stanno effettivamente ricevendo i soldi che erano stati promessi, e questo è un buon indicatore, però bisogna tenere conto che il paese è fermo e c'è un vecchio detto che mi fa piacere ricordare: chi non lavora non mangia, e chi non mangia poi a un certo punto si arrabbia, sì, si ribella e mette in discussione la pace sociale. Attenzione, certo, perché si può arrivare anche a quel punto. Oh, in tutto ciò chi non viene ricompreso, no, in queste norme, o ne viene ricompreso con difficoltà, sono le start-up, no, il nostro serbatoio di innovazione. E qua a pagina 2 Luca De Biase ci porta in questo mondo: sono di fatto escluse perché le risorse che si possono chiedere sono misurate in funzione del fatturato, mentre invece le start-up hanno naturalmente delle esigenze di liquidità diverse. E questo è davvero un dramma nel dramma, perché le start-up sono il segnale, l'indicatore della vivacità del sistema economico. Affossarle è un delitto grave, una colpa grave, e in più le start-up significa, nella stragrande maggioranza dei casi, dei giovani che non hanno trovato magari lavoro e che hanno deciso di scommettere sulle proprie capacità professionali, sulla capacità di creare impresa. Ecco, questa incapacità di star dietro, di aiutare questo mondo, il mondo delle start-up, si traduce anche nell'affossamento delle speranze di molti giovani, e forse dei giovani migliori, e questo è davvero un delitto, non possiamo lasciar accadere tutto ciò. Tutta la questione delle riaperture è al centro di una discussione politica, come sappiamo e come abbiamo raccontato, nel quale la regione Lombardia si spinge un po' più avanti e il governo dall'altra parte frena. Nel frattempo però c'è chi si muove autonomamente, e Luca Orlando a pagina 5 ci fa un bel racconto dell'accordo siglato, che mi pare un buon segnale e forse potrebbe essere anche un esempio per gli altri territori di questo paese. L'accordo raggiunto tra l'Associazione Industriale di Brescia e i sindacati proprio per il rientro al lavoro in sicurezza, no? Applicazioni, test sierologici, regole operative standard per tutti, e poi chiaramente declinate all'interno delle singole aziende a seconda del tipo di azienda che c'è, e insomma, ed è un buon segnale in vista di una ripartenza. Hai fatto bene a segnalarlo, credo che sia un fatto importante, indica la strada da seguire. Occorre un patto tra imprese e sindacati, occorre creare le condizioni per lavorare in sicurezza, ma il paese non può restare troppo a lungo bloccato. Come ho ricordato prima, chi non lavora non mangia. E chi non mangia significa miseria, significa disoccupazione. La strada giusta è ripartire tutelando la salute. Tutto quello che si può fare a distanza ben venga, il lavoro a distanza deve continuare, ma al tempo stesso le fabbriche, sia pure nella massima sicurezza, sia pure gradualmente devono riaprire. In caso contrario avremo dei problemi seri, perché I soldi a un certo punto da qualche parte bisogna trovarli. Eh sì, perché la liquidità serve sì per pagare fornitori e dipendenti in una fase temporanea e poi però insomma, bisogna ritornare a produrre e lavorare. Sotto questa chiave segnalo anche il pezzo di Raul De Forcade che ci racconta come Ferretti, il colosso tra i vertici mondiali nella costruzione di grandi yacht, abbia firmato un protocollo nel momento nel quale si ripartirà anche su questo fronte esattamente per questo, per far tornare al lavoro i suoi dipendenti. Ti voglio portare in chiusura, Fabio, sulla questione del MES che continua a creare divisione all'interno della maggioranza. Ieri le cose si sono lievemente calmate e però è stata una giornata quella di ieri nella quale abbiamo visto lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni schizzare oltre i 240 punti. Su questo fronte che cosa dobbiamo e possiamo aspettarci secondo te? Io direi patti chiari, amicizia lunga. Bisogna essere certi che questo MES senza condizioni che mette a disposizione dell'Italia 36 miliardi sia davvero tale. Allora, se non ci sono condizioni, l'Italia io credo che sia giusto che accetti quei soldi, che li prenda perché ne abbiamo bisogno e si potrebbe per esempio partire dalla sanificazione degli ospedali e delle strutture sanitarie, utilizzare quei soldi così. Ma occorre stare attenti, per l'appunto patti chiari e amicizia lunga, perché il sospetto che poi qualcuno faccia il furbo e che alla fine l'Unione Europea ci presenti il conto, magari mandando avanti gli olandesi, francamente è da tenere conto. Quindi bisogna chiarire fino in fondo se è davvero un MES senza condizioni. Se è un fondo salva stati senza condizioni, bene, portiamolo a casa, ma attenzione ai trabocchetti. Grazie anche per oggi e per questa settimana al nostro direttore Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buona giornata, giovedì prossimo. Buon lavoro a tutti, buona giornata a tutti. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo col vice ministro Sileri, vice ministro della salute, e poi ci occuperemo di scuola, riaprire, non riaprire, quando, in che modo. A dopo.